Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti anche per questo mercoledì 22 gennaio, naturalmente la pagina internazionale e quella nazionale saranno oggetto di letture, qualche commento durante la rassegna stampa, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda, sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. La NATO resta impegnata nella missione di addestramento in Iraq. Israele taglia gli scuolabus per i bambini beduini. Brasile, giornalista accusato di crimini informatici per aver pubblicato leaks che riguardano i telefoni di funzionari pubblici. Stati Uniti, primo caso di coronavirus, intanto salgono a 9 le vittime in Cina. La Corea del Nord chiude i confini ai turisti e infine Sri Lanka, il presidente ferma la ricerca degli scomparsi durante la guerra civile. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dall'Iraq. L'assistente del segretario generale dell'Alleanza Atlantica, John Manza, ha incontrato il vice ministro degli esteri iracheno, Abdul Karim Mustafa, e il suo team. I due hanno discusso dello stato attuale della missione NATO in Iraq e hanno deciso che la cooperazione tra i due è di reciproco beneficio. La NATO rimane così impegnata nella missione di addestramento che contribuisce alla lotta contro il terrorismo, sebbene alcune attività siano in questo momento temporaneamente sospese. L'alta commissione irachena per i diritti umani ha annunciato che 10 manifestanti sono stati uccisi e 159 feriti durante manifestazioni degli ultimi giorni, 3 morti in più e 48 feriti in più rispetto a quanto riportato in precedenza, escluso il personale di sicurezza. Almeno 85 persone sono state arrestate. A Baghdad 2 manifestanti sono stati uccisi nelle ultime 24 ore. Uomini armati invece hanno ferito un soldato che stava di guardia ai manifestanti. Libano è stato annunciato il nuovo governo dopo che il potente gruppo sciita Hezbollah e i suoi alleati hanno siglato un accordo su un esecutivo che dovrà affrontare la profonda crisi economica. Il gabinetto, guidato dall'ex ministro dell'istruzione Hassan Diab, è composto da 20 ministri, con l'economista Ghazi Wasni alle finanze. Il premier promette di soddisfare le richieste dei manifestanti. E per 2 giorni le autorità libanesi hanno detenuto il giornalista freelance Nicholas Freaks. È stato arrestato il 19 gennaio dalle forze di sicurezza, stava seguendo le proteste nel centro di Beirut. In piena campagna elettorale, i due maggiori blocchi politici israeliani enfatizzano i piani per annettere parti della Cisgiordania. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il leader blu e bianco Benny Gantz stanno entrambi discutendo quali pezzi della Cisgiordania annettere se eletti. Gantz sta spingendo l'idea di annettere la Valle del Giordano, la parte meridionale della Cisgiordania, dice che è la barriera difensiva orientale in qualsiasi conflitto futuro. La Valle del Giordano confina con la Giordania, una nazione nominalmente in buoni rapporti con Israele. Netanyahu invece vuole anche annettere, oltre alla Valle del Giordano, molto altro. Dice che se viene eletto annetterà tutti gli insediamenti in Cisgiordania, senza eccezioni. 3 palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco dalle forze di sicurezza israeliane martedì, dopo aver presumibilmente tentato di attraversare il confine di Gaza. Israele taglia gli scuolabus per i bambini beduini. Migliaia di bambini in età prescolare non sono andati in classe per giorni dopo che le autorità israeliane hanno fermato il loro unico mezzo per andare a scuola. Il consiglio regionale di Neve Midbar ha annunciato il 12 gennaio che gli autobus avrebbero smesso di servire 20 villaggi nella regione meridionale del Nakab, il Negev. il giorno successivo senza preavviso. Di conseguenza circa 2.200 bambini beduini non sono andati a scuola per 3 giorni. 16 villaggi colpiti non sono riconosciuti, tra cui Bir al-Hamman, al-Zornuk, Abda e Rakhma. Israele praticamente impedisce ai villaggi non riconosciuti del Nakab di costruire nuove strutture. La legge israeliana impone l'educazione dei bambini dai 3 ai 15 anni. Tuttavia, un recente rapporto del Parlamento israeliano, la Knesset, afferma che circa 5.000 bambini beduini di età compresa tra i 3 e i 5 anni non hanno frequentato la scuola negli anni accademici 2017-2018. Poiché ai residenti beduini dei villaggi non riconosciuti è vietata l'edificazione, i loro figli sono costretti a recarsi in scuole lontane. I bambini di Rahm devono fare 26 chilometri verso i villaggi di Wadi al-Nam e al-Karsr al-Sir per frequentare la scuola elementare. Libia. L'Unione Europea ha convocato una riunione straordinaria del Comitato Europeo per la Politica e la Sicurezza, il COPS, sulla Libia per dopodomani. Stai ascoltando Radio Bullets. Svizzera. Donald Trump pronto a imporre dazi sulle macchine europee. In un'intervista a Davos al Wall Street Journal, il presidente americano ha affermato di essere assolutamente serio su eventuali dazi sulle auto made in Europe se non si raggiungerà un accordo commerciale. E una potente tempesta sta colpendo Marocco e Spagna, portando forti venti, onde martellanti e abbondanti precipitazioni. Juan Guaidó, presidente del Parlamento venezuelano, è giunto ieri a Londra, proveniente da Bogotà, per incontrare il ministro degli esteri inglese Dominic Raab. Ha poi incontrato anche Boris Johnson. Prossima tappa a Bruxelles, dove avrà un colloquio con l'alto rappresentante per la politica estera, Joseph Borrell. In seguito in Svizzera per partecipare al forum di Davos e infine sabato andrà a Madrid. Intanto a Caracas agenti dell'intelligence interna, la SEBIN, hanno fatto irruzione proprio negli uffici di Guaidó, mentre il deputato venezuelano di opposizione Ismael León sarebbe stato rapito dalle FAES, le forze speciali bolivariane che fanno capo al presidente Maduro. La denuncia è stata fatta e ufficializzata dall'Assemblea Nazionale su Twitter dopo un annuncio fatto in aula dalla deputata Adriana Picciardo. Russia. Il presidente Vladimir Putin ha approvato martedì un nuovo governo che ha descritto come una rottura con il passato, portando alcuni volti nuovi ma mantenendo molti ministri senior. Il nuovo governo comprende un nuovo ministro dell'economia e un nuovo vice primo ministro, ma i ministri delle finanze, degli esteri, della difesa, dell'energia e dell'agricoltura hanno mantenuto i loro posti di lavoro. Sri Lanka. Non posso riportare indietro i morti. Il presidente ferma la ricerca degli scomparsi della guerra civile. Un decennio dopo il sanguinoso conflitto, con 24.000 scomparsi, dispersi sono morti, ha detto il presidente Gotabaya Rajapaksa. E non posso riportarli indietro. Il governo, desideroso di chiudere un capitolo doloroso della storia del paese, prevede di rilasciare certificati di morte per i dispersi dello Sri Lanka, un numero fissato a 24.000. Ma non tutti i parenti dei dispersi di una guerra che è durata 26 anni e si è conclusa nel 2009 sono pronti ad accettare che i casi vengano chiusi. Alcuni respingono l'idea che gli anni trascorsi alla ricerca dei loro cari, nella speranza che siano sopravvissuti, siano stati vani. La Corea del Nord ha temporaneamente chiuso i confini ai turisti stranieri. Hanno fermato 2 importanti tour operator del paese in uno sforzo apparente per isolarsi dal nuovo virus che causa preoccupazioni per la salute globale. La Corea del Nord è uno dei paesi più poveri al mondo, con poche risorse per combattere il grave focolaio. Il paese condivide il suo confine più lungo con la Cina, che è anche l'epicentro del virus e riceve un flusso costante di turisti dal paese, che è anche il suo alleato più apprezzato. E non ci resta che andare in Cina. Salgono a 440 i casi del coronavirus, 9 i morti. Il vice ministro della Commissione Nazionale per la Salute, Li Bin, ha detto che il nuovo virus della stessa famiglia della SARS può mutare e propagarsi più facilmente. Intanto l'amministrazione della città di Wuhan e le autorità cinesi hanno invitato specialisti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per aiutare a combattere la diffusione del nuovo coronavirus. Li Bin ha affermato che Pechino rimarrà completamente trasparente nella lotta contro questo nuovo virus e informerà tempestivamente tutti i paesi dei successi nella prevenzione della diffusione. Il 31 dicembre le autorità cinesi hanno informato l'Organizzazione Mondiale della Sanità dello scoppio di questa nuova polmonite nella città di Wuhan, nella Cina centrale. Il 7 gennaio gli specialisti cinesi hanno determinato il virus dietro l'infezione, il coronavirus 2019 NCOV. I medici affermano che i sintomi comprendono naso che cola, tosse, mal di gola e senso di oppressione al torace. Emicrania e febbre sono anche possibili e possono durare diversi giorni. Un tribunale cinese ha condannato Meng Hongwei, ex presidente dell'Interpol, a 13 anni e mezzo di prigione per aver accettato tangenti per oltre 2 milioni di dollari, scrive l'Associated Press. Meng si è dichiarato colpevole l'anno scorso per aver usato le sue posizioni di viceministro della pubblica sicurezza in Cina e presidente dell'Interpol per finanziare tangenti per oltre 2 milioni di dollari tra il 2005 e il 2017. Stati Uniti, è cominciata al Senato americano la prima udienza del processo di impeachment contro presidente Trump, il terzo nella storia degli Stati Uniti. Tra Dem e Repubblicani è già scontro frontale. Al centro della battaglia la controversa mozione presentata dal leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, che mira un processo rapido, come auspicato da Trump, e possibilmente senza nuovi testimoni e documenti. Il primo caso di coronavirus che sta investendo l'Asia è stato rilevato negli Stati Uniti. A un uomo nello stato di Washington è stata diagnosticata la malattia similinfluenzale dopo essere tornato da un viaggio nella città cinese di Wuhan. 30 anni, risiede nella contea di Snohomish, a nord di Seattle. È arrivato negli Stati Uniti su un volo non diretto per l'aeroporto di Seattle-Tacoma il 15 gennaio, prima che gli aeroporti iniziassero a controllare i viaggiatori di Wuhan. L'amministrazione Trump ha in programma di aggiungere 7 paesi: Bielorussia, Eritrea, Kirghizistan, Myanmar, Nigeria, Sudan e Tanzania alla lista dei divieti di viaggio. Secondo quanto riferito dai media statunitensi, è probabile che la mossa inasprisca i legami tra gli Stati Uniti e i paesi interessati dal divieto allargato. La Nigeria, ad esempio, è la più grande economia dell'Africa e il paese più popoloso. È un partner antiterrorismo degli Stati Uniti e una grande diaspora residente in America. Brasile, i procuratori hanno accusato il giornalista Glenn Greenwald di violare le leggi sulla criminalità informatica, riferisce il New York Times. La denuncia afferma che Greenwald faceva parte di un'organizzazione criminale che ha violato i telefoni dei funzionari pubblici, un'accusa apparentemente collegata a un vasto resoconto di Greenwald su The Intercept sulla politica brasiliana. L'anno scorso l'Intercept ha pubblicato una serie di articoli su una task force anticorruzione e un giudice che ora è il ministro della giustizia del presidente Bolsonaro. Sulla base dei documenti trapelati, messaggi di chat e altre informazioni ottenute da una fonte anonima, il Washington Post ha riferito che Greenwald ha affrontato minacce di ritorsioni per il suo lavoro. A luglio l'amministrazione Bolsonaro ha arrestato 4 persone per aver presumibilmente hackerato l'account di Telegram del ministro della giustizia Sergio Moro, affermando che gli hacker avevano fornito documenti a The Intercept, che si era rifiutato di rivelare l'identità delle sue fonti in quel momento e condannava le insinuazioni del governo secondo cui l'Intercept aveva agito al di fuori del suo diritto alla pratica del giornalismo. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi, appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie. Thank you.

Somaro. Somaro! Somaro! Somaro! Somaro! Sette, sei, uno, uno, e sette, sei. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Nove e 33 minuti di questa giornata di mercoledì 22 gennaio. Buongiorno a tutti per la segna stampa all'interno di Radio Zanardi. E sembra essere tornati i tempi della Minetti, la famosa igienista dentale di Berlusconi, perché leggo: Regione Puglia, mister Papete ora va a fare il governatore, non è più Forza Italia il veicolo delle Minetti, ma è la Lega, veicolo del proprietario del Papete, l'eurodeputato leghista Casanova. Mister Papete non si contiene più. Massimo Casanova, il proprietario dello stabilimento balneare più amato da Matteo Salvini, il suo amico fraterno, non si accontenta della poltrona da eurodeputato gentilmente concessagli dal capitano. Casanova alza la posta. È convinto che sarà lui il candidato alle destre della regione Emilia in Puglia, come un uomo della Lega è fatta anche lì, diciamo facile, dice Repubblica, il nome lo sceglie Matteo, io o un altro leghista battiamo Emiliano. Questo è l'anticipo che ci porta appunto alla settimana elettorale sia della Calabria, ma soprattutto interessa a noi, ma credo anche tutta l'Italia, l'Emilia Romagna, quello che la stampa chiama l'Emilia Romagna, la battaglia dei territori. Ecco su cosa si giocano le elezioni delle nove province. L'onda leghista minaccia i capoluoghi di centro-sinistra. Dunque Modena nel capoluogo e a Carpi, in polla resta Bonaccini. A Parma c'è l'incognita Parma, ma Lega parte favorita perché più si va ad ovest più la Lega è forte in vicinanza a Lombardia, ma c'è Pizzarotti, il sindaco molto amato, ha dato indicazioni di votare centrosinistra. A Ravenna migliaia di posti a rischio per lo stop delle piattaforme. A Ferrari il Carroccio punta tutto sulle politiche antimigranti. A Rimini le concessioni balneari, un'ultima spiaggia del duello. A Bologna nella Roccaforte Dem la spina dei trasporti. Reggio Emilia la provincia più imbilica, scintille finale su Bibbiano. Forlì Cesena, sanità e il caso aeroporto fanno litigare i partiti. A Piacenza, nella terra di Bersani, l'onda verde è già arrivata, ma anche da un pezzo. Questo è un po' l'identikit che fa la stampa sui voti dislocati. Comunque le mappe con il rosso, magari un po' abusato il rosso in questo caso del centro-sinistra, diciamo il rosa che più nelle città e il verde leghista che più nelle periferie, negli Appennini. Ma poi abbiamo Salvini al citofono: qui c'è un pusher, la provocazione del leader alla periferia di Bologna, siamo al pilastro, e ieri sul suo giorno di digiuno dopo il voto in giunta. Se ti citofonasse a me, dice qui c'è un pusher, io no, e lei sì invece, visto che in qualche modo proibendo la cannabis legale favorisce il clandestino. Comunque poi c'è Salvini che dice ieri sera: stasera cena sostanziosa, ovviamente con mortadella e lambrusco, perché lui, sappiamo, Salvini è un grande appassionato di lambrusco. Domani mai dello champagne francese, mai poi mai. Domani io digiuno, i processi non ci fermano, io non mollo. Salvini naturalmente è faina, sa perfettamente che è il Senato che decide o meno la sua rinvio a giudizio, possibile rinvio a giudizio al processo e non la commissione, quindi adattivi libera la commissione, vedremo poi in Senato. Comunque 10:30, oggi digiuno, mi concedo solo ginseng, vitamine e magnesio, alla vostra anche il ginseng, no? C'è tutto anche il New Age in Salvini. Poi ci fa sapere niente tortellini alle 15:30. Oggi a pranzo tè caldo, non si molla. Questo è il quadro, la campagna elettorale di Matteo Salvini. Nonostante però il ginseng e il titolo del manifesto è impietoso, Matteo Salvini intossica la campagna, quindi il ginseng non riesce a mondare appunto la campagna del leader leghista, che a Bologna, ricordiamo, cerca pusher con tanto di poliziotti al seguito, quindi pusher offresi. Buonasera signora, suo figlio è uno spacciatore, Matteo Salvini, seguito dalle contestazioni, scortato dalla polizia al pilastro, ieri ha suonato il citofono in un appartamento alla ricerca di un presunto pusher. L'ultima trovata del giustiziere o martire, nel caso Grigoretti è martire, in altri casi giustiziere, insomma, quindi fa tutti i ruoli in parte. Nel frattempo però ci ricorda il manifesto che oggi intervista Elly Schlein, che guida la lista ecologista di sinistra Emilia Romagna Coraggiosa, Verdi dal cuore rosso, dice: ma nel frattempo un altro caso sta mettendo in grave imbarazzo la Lega dell'Emilia Romagna. Oggi sarà depositato un esposto sul caso Solaroli Ferraresi, cioè sull'offerta da parte del vice capogruppo della Lega del Consiglio Comunale di Ferrara, Stefano Solaroli, di un posto di lavoro da 1.400 euro alla collega di partito Anna Ferraresi, a patto che quest'ultima, rompiscatole e non allineata, lasciasse il Consiglio e la finisse con le sue denunce. Poi abbiamo invece dalla Repubblica, dalle pagine della Repubblica, invece Bonaccini che punterebbe, anzi conta sul voto disgiunto, quindi è un pezzo importante in questo voto, il voto disgiunto dei 5 Stelle della lista di sinistra. Il governatore uscente potrebbe attirare anche i consensi di forzisti scontenti della candidata leghista, qui sembra appunto più un auspicio. E poi ci sono le foto appunto del blitz dei citofoni per Salvini, il quale però si prende anche in cassa l'endorsement dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, che il Carlino ovviamente oggi rilancia con una notevole gran cassa in primo piano. L'assist di Mihajlovic a Lucia: è ora di votare per il cambiamento, serve una svolta, mi piace la grinta di Salvini, ottima la scelta di una donna, quello che conta è mantenere le promesse, dice Mihajlovic, che quindi ha scelto. Mentre anche dalle pagine del giornale abbiamo appunto da un lato il Salvini che leader di tendenza delle nuove diete, il digiuno fa boom sui social, ma è anche a buffata di sfottò, per cui la pancia si riempie di ironia e di prese in giro. E poi ci sono le scintille nel dibattito che Bonaccini e Borgonzoni hanno avuto ospiti del Resto del Carlino, si sono scontrati su sanità in particolare, poi tasse, autonomia e conseguenze del voto sul Conte Bis. Mentre il giornale oggi dedica ampio spazio a un'intervista alla senatrice azzurra bolognese Anna Maria Bernini, che anche lei lancia un monito: stop all'egemonia rossa, dalla vittoria in Emilia, quindi proiettati in scala nazionale, un segnale a Mattarella. Poi c'è la storia del buon governo del centrodestra al nord, Genova, soldi all'associazione di Toti, allerta di Banca Italia in procura, oltre 200.000 euro finiti in parte sul conto del governatore ligure, lui spese per la mia attività politica. Beh, finanziata anche la campagna di Bucci. Questo è l'unità di informazioni finanziarie trasmesso il fascicolo PM di Genova. E appunto, questi sono gli ingenti interventi economici che la Lega mette nella campagna elettorale. Forse fanno parte di quel gruzzoletto di 43 milioni a suo tempo distratti dai soldi dello Stato. fatto. Ma veniamo invece a abbiamo il tema che arriva da il buon amministrazione che arriva a Bologna. È il governatore Veneto Zaia che, forte del suo mandato, dice su Gregoretti maggioranza irresponsabile, se il processo lo chiede l'uomo della strada, che sarebbe lui. Sbagliano a temere il modello Lega in Emilia Romagna, noi siamo Labur, siamo laburisti. E allora vediamo questi laburisti, li vediamo in Piemonte dove governano. Pronto soccorso privati, scontro in regione, sanità in svendita, no, non sono Belzebù. Ecco i laburisti che privatizzano tutto, dei strani laburisti. È la cronaca torinese della Stampa. La smetta di fare il Bruno Pizzolo Niccolò Caroccio della sanità piemontese, basta commentarla, diteci cosa volete. Così Domenico Ravetti, capogruppo del PD al leghista Alberto Priglioni. Attenzione a privatizzare, ha munito un altro Dem. Maurizio Marello, evocando lo scontro, che contrappone il governo ad autostrade. Sono alcuni dei passaggi del dibattito in Consiglio regionale innescato dalle comunicazioni dell'assessore alla sanità Luigi Icardi, richieste dalle opposizioni sulla privatizzazione dei pronto soccorso, anticipata sulla Stampa. Meglio sulla disponibilità avanzata dei privati convenzionati di arrivare a pronto soccorso in alcune delle loro strutture, non generalisti ma dedicate a precise specialità, fatto salvo il rispetto dei parametri di legge, quello sempre, si fa per dire, inserendosi nella rete dell'emergenza urgenza con un occhio da parte della regione al modello Emiliano Lombardo Veneto, quindi delle regioni leghiste, non più il primo dove i privati in sanità pesano per il 13% che il secondo, qui siamo ad un 30% abbondante. E questo è il modello laburista di Zaia, cioè privatizzazione che ricorda molto Trump più che i laburisti, quindi la destra radicale. E poi c'è la Lega che si è sdoganata sul razzismo perché ha fatto un bel convegno sul razzismo, e allora abbiamo che è invitato anche la Segre poi non ci va a questo convegno e rifiuta anche oppure mette dei puntini su lei sulla cittadinanza onoraria che un altro città leghista a Verona gli ha dato. Dunque Liliana Segre, la mia cittadinanza è incompatibile con via Almirante, sì, perché per dare un colpo alla cerca e alla botte tutti in nome dell'italianità dà la cittadinanza onoraria alla Segre scampata ad Auschwitz, ma poi intitolano la via d'Almirante quel direttore della rivista La Razza fascista. A Verona nasce via Almirante, la Segre è incompatibile con me, la senatrice a vita e la cittadinanza onoraria, il sindaco dibattiti strumentali, lui è un uomo del fare delle sciocchezze. Comunque da PD 5 Stelle critiche contro amministrazione di centrodestra. Giugno e faceva un gran caldo, Almirante affamato sbuffava, di mangiare a Bologna sperava, e al sautista ordinò di frenar, per una botta di cantagallo, per pranzare e per fare benzina, ma il gran caldo di quella mattina, per un pezzo dovrà ricordar. Poi sui bravi sedette era stanco, poi si alzò per andare nel bagno, ma lo vide un barista compagno. E la lotta improvvisa scattò. E la lotta improvvisa scattò, c'è Almirante si sparce la voce, è arrivato coi suoi camerati, e si aspettano di essere serviti, oggi in bianco dovranno restare. Sta uccendo e tutti i compagni, dal suo servizio ai distributori, e i fascisti e i fucilatori, gli gridavano qui posto non c'è, Marzabotte è ancora troppo vicina, faccia presto ad alzare le suore, delle fogne può dir ciò che vuole. Ma Bologna non deve parlare, schiumante di rabbia, se ne andò la squadraccia missina, pancia vuota e senza benzina, Cantagallo dovette lasciar. Era giugno e sull'autostrada, ma che caldo faceva, Almirante affamato spingeva, delle fogne a piedi tornò, ed adesso com'è naturale, il carlino offeso si lagna, porta ferma quella buragna. Rifa sesta, gne gne, compare. E allora via Almirante. È bizzarro, fra l'altro, che inizialmente la strada, si apprende, leggo dal manifesto, doveva essere intitolata Giorgio Gaber, ma poi praticamente uguale, ma poi l'assemblea cittadina ha votato la modifica, quindi il salto è stato da Gaber ad Almirante, così, con un triplo carpiato. E allora appunto la Segre che dice anche dal manifesto respinge appunto l'offerta invece a lei di cittadinanza onoraria. Le due scelte sono di fatto incompatibili, la città democraticamente faccia una scelta, dice la Segre. Allora vediamo come reagisce invece il giornale. La Verona secondo il giornale, da un lato c'è la cronaca, dall'altro c'è questo commento che è veramente un caleidoscopio irrefrenabile di Giannino Della Frattina, che chiede, nel nome del liberalismo puro, libera toponomastica e libero Stato. Questa storia dei concessori di patenti di Democrazia e di Bontà, dopo aver occupato per decenni scuole, università, case editrici e cinema, insomma, non si può più sopportare. Quindi Della Frattina, visto il clima, rialza lo stendardo. Devo dire però che poi il giornale ci dà sotto questi dati dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Dati forniti da Polizia e Carabinieri. Qual è la sintesi? Per il giornale non c'è dubbio. Sorpresa, calano i reati legati al razzismo e xenofobia, grazie ovviamente all'azione del governo precedente. Ma se guardiamo gli stessi dati letti dal manifesto, scopriamo, oibò, crescono i reati di stampo razzista. Quando si dice che i numeri poi sono dati certi, inattaccabili. Il razzismo, dice il manifesto, è il motivo alla base di 3 episodi di violenza su 4. Il dato appunto di questo osservatorio per contro gli atti discriminatori presentati durante il convegno alle vittime dell'odio. È vero che in valore assoluto, dice il manifesto, e su questo ovviamente si è appigliato il giornale, c'è stato un calo rispetto al 2018. Tuttavia sono aumentati i casi di incitamento a violenza, le aggressioni fisiche, gli atti di vandalismo riconducibili al razzismo e xenofobia. Ma sulla toponomastica forse c'è stato un equivoco, perché noi credevamo nei cortei via Almirante, oggi diciamo via Salvini, e loro l'hanno preso dalla lettera. E allora c'è anche via Craxi, perché leggo da Marco Travaglio una via per Borrelli, una lettera di un loro lettore che ha raggiunto il Fatto Quotidiano, che noi riprendiamo. Caro direttore, vi scrivo per avanzare una proposta molto semplice ma credo significativa. In questi giorni si sta di nuovo scandalosamente parlando di intitolare una via di Milano a Craxi. Mi piacerebbe che il Fatto, mio giornale, si facesse promotore dell'intitolazione di una strada di Milano a Francesco Saverio Borrelli, servitore dello Stato che coordinò le indagini che misero alle strette i predoni dello Stato come Craxi. Sarebbe importante se il Fatto avviasse una campagna, eventualmente con una raccolta di firme di forte impatto simbolico, che riaffermi i principi fondativi della vita civile. Firmato Valerio Coppola. Questa è la lettera che Travaglio pubblica nel suo fondo di questa mattina. Ma per tornare ai voti anche non solo dell'Emilia ma anche della Calabria, il Fatto Quotidiano ancora, che poi mi porto in pagina terza con Lorenzo Garelli, dice: da soli o col centro-sinistra il ballottaggio che divide i 5 Stelle. I candidati più votati alle regionali su Rousseau fotografano in pieno la frattura interna, quel che resta dei Di Maiani, questo poi vedremo, Di Maiani contro gli aperturisti. Domani si rivota, il secondo turno per la scelta degli aspiranti presidenti di Puglia, Liguria e Toscana. E allora i Di Maiani, che non è un cioccolatino, ma è appunto il premier, il capo, il fila, forse non più, dei 5 Stelle. Di Maio verso il passo indietro. Questi sono i giornali più o meno tutti che stamattina aprono su questo disfarsi di 5 Stelle. Convocato per oggi il vertice del movimento, voci di dimissioni da capo politico. E Massimo Franco, in qualche modo già il requiem, la stagione che finisce. Zingaretti se lascia non mi fa piacere, gli fai oggi Conte che dice se Di Maio lascia rispetto alla decisione dei 5 Stelle ma mi dispiace, mentre la cosa c'è un riverbero anche a Roma, questo 5 Stelle, molti 5 Stelle che si riposizionano altrove visto che sono tempi di vacche magre nelle urne. urne. Roma, Raggi bocciata da 5 stelle sui rifiuti, c'è Moti del Campidoglio Romano, hanno votato con l'opposizione di destra, mentre per quanto riguarda il governo non c'è intesa sulla prescrizione. Questo è la questo è l'analisi Massimo Franco che dà il De Profundis per Di Maio, che dovrebbe finire primo, anzi senza primo, inter pares e basta, con un direttorio. L'asse tra Conte e il PD, la spinta di Grillo, così finisce una stagione. Ma chi sarà il nuovo capo politico sostanziale o formale anche dei 5 Stelle? Qui naturalmente siamo nel Toto 5 Stelle di Battista, Patuanelli e pochi altri. Le possibili alternative al regno di Luigi. La scelta agli stati generali o dopo. Questo è quanto, portandosi a Roma, di 12 voti 5 stelle contro la discarica, quindi chiaramente un voto politico. Raggi battuto due volte dai suoi, perché appunto nei sondaggi sale anche qui la stella della Meloni per la capitale. Devo dire che la stella dell'Italia sale dovunque, anche a scapito della Lega. Questo non farà piacere del tutto a Salvini, ma non fa piacere neanche a noi, sinceramente. Roma, la scelta del sito di Monte Carnevale, questa era la discarica battuta in Campidoglio. La sindaco, andiamo avanti per i romani. Mentre vanno in piazza a Roma anche personaggi dello spettacolo, Tognazzi in piazza, è peggio di Bucarest, quindi l'evocazione della famosa rivolta di Bucarest, dove non sa chi fosse peggio tra i dittatori o rivoltosi. L'ira dei cittadini e gli uomini di spettacolo sotto il Campidoglio, traditi dai politici. La Stampa, 5 Stelle, Di Maio ribalta al tavolo. Il ministro vuole tenere il ruolo di capo di delegazione nel governo. I gruppi preferiscono Patuanelli. Intervista al sindaco di Parma Pizzarotti. Il 2020 è l'anno che segnerà il tramonto dei 5 Stelle. E anche qua i giornali cantano tutti il De Profundis in modo, direi, all'unisono. Forse tra fatto salvo il Fatto Quotidiano. Perché Massimiliano Panarari, la parabola di un leader anomalo, dalla Stampa. E invece il Fatto Quotidiano sopracitato. Oggi Di Maio fa la mossa del cavallo. Il passo indietro del capo politico in vista della nuova fase dei 5 Stelle sul binario tracciato da Congrillo, l'interim a Vito Crimi. Questo sarebbe il voto, il nuovo volto. E il Fatto Quotidiano, di solito, ha delle buone intrature nei 5 Stelle. Sì, questo è il tema principale che attrae oggi la Repubblica, che infatti titola Di Maio lascia, parentesi, ora doppia. Attese le dimissioni del capo politico che prepara un piano per il congresso di marzo. Via altri due deputati nel retroscena di Annalisa Cuzzocrea. Di Maio cerca il rilancio ma si apre la guerra per la successione. Patuanelli in poll per fare il capo delegazione, Crimi reggente del movimento. Questo appunto sono le ultime fibrillazioni anche viste dal giornale. Di Maio al capolinea, oggi si dimetterà da capo dei 5 Stelle un ritratto di Francesco Maria Del Vigo, vice direttore del giornale, da vincente a zavorra la Casaleggio lo cestina. A proposito poi di Grillini, nell'analisi di Augusto Minzolini, il paradosso del grillismo: calano nei sondaggi ma la loro schizofrenia politica ha contagiato le istituzioni. Fra l'altro c'è Toninelli, l'ex ministro, che vuole mantenere assolutamente il primato di Gaffer, che difficilmente gli potrà essere tolto anche dopo questa fotonotizia del giornale. Ennesima gaffe di Toninelli, sceso in Emilia Romagna per la campagna elettorale, a Reggio Emilia il disastro. Cosa ha detto Toninelli? Sono veramente felice di essere insieme al nostro candidato presidente Daniele Zanichelli. Il candidato della Lega dei 5 Stelle in Emilia Romagna però si chiama Simone Benini, e Zanichelli, con cui lo ha confuso Toninelli, peraltro non si chiama nemmeno Daniele. Insomma, quindi il giornale infierisce su Toninelli, visto che non può più farlo come ministro, insomma, anche in questo suo nuovo ruolo. A proposito di 5 Stelle, poi c'è appunto il caso Roma. Raggi battuta dai suoi in Campidoglio, discarica bocciata in aula, però il progetto resta. Anche dal Manifesto, i 5 Stelle capitolini si spaccano sulla discarica. Rifiuti a Roma, 12 consiglieri votano con le opposizioni contro il nuovo sito a Valle Galeria. Tensioni interne ai pentastellati, ma la sindaca Raggi non esclude di andare avanti. Peraltro c'è anche poi un'analisi più ampia che tocca ad esempio la riapertura possibile della discarica di Borgo Montello. La regione vorrebbe riaprirla, l'ARPA no. Borgo Montello, il re della monnezza, Maglio Cerroni, azionista della discarica di Latina candidata per i rifiuti romani, torna in pista. Ricordiamo che questo sito di Latina, già sequestrato alla mafia, è stato acquistato al costo di 2,5 milioni. Naturalmente continuano tutte le questioni interne al governo e alla sua maggioranza. Lo stallo è così descritto da Antonello Mascali del Fatto Quotidiano: niente accordo, solito Renzi, gela tutti sulla prescrizione. Rieccoli: il vertice risolutivo sulla giustizia non lo è affatto. Italia Viva boccia la mediazione di Palazzo Chigi, minaccia ancora di votare con Forza Italia. La stizza di Zingaretti, che se la prende con l'ex segretario, tuteli la maggioranza invece di indebolirla. Nel frattempo Conte, sempre dal Fatto Quotidiano, fa in visita all'Università di Firenze, dove ha insegnato fino all'anno scorso, e dice: torno presto ma non troppo, anche perché le sabbie mobili sono tante, da Italia Viva fino agli abbandoni 5 Stelle, e dove si posizioneranno i 5 Stelle dopo comunque l'elezione in Emilia Romagna. E poi ci sono i temi dell'economia, per cui appunto Italia Viva si mette contro anche la revoca delle concessioni ad autostrade, chiedendo con emendamento che lo Stato paghi il più possibile se si revoca le concessioni. Questa è la faccia degli italiani, caro Renzi, che sono quelli che poi pagano in questo caso. E poi ci sono i temi delle grandi aziende, da sempre in bilico all'Italia e Ilva. E apriamo le pagine economiche, come Economia e Finanza della Stampa: all'Italia i paletti di Patuanelli, no a spezzatino e taglio dei posti. Per il ministro è necessaria una ricognizione delle rotte meno profittevoli. 4 mesi di tempo per uscire dall'amministrazione straordinaria. Questa l'abbiamo già sentita, eh? Questa che sta per scadere l'amministrazione straordinaria e poi arriva l'Europa. Comunque 400 milioni di euro del presto ponte per tenere in vita la compagnia. Poi mi sposto all'Ilva e sono appunto nella pagina economica del Corriere della Sera. L'accusa dei commissari Ilva: Arcelor, falsità sullo scudo. La chiusura peserebbe per 3 miliardi e mezzo sul prodotto interno lordo. Vogliono tagliare 5.000 unità. Dunque ArcelorMittal vuole rompere il contratto con l'amministrazione straordinaria dell'Ilva, rifugiandosi nella cosiddetta raffazzonata giustificazione della caduta dello scudo penale, perché si è reso conto di non essere capace di gestire un'operazione industriale così complessa come quella del rilancio dell'acciaieria. In una memoria depositata nella causa civile a Milano sulla rescissione del contratto, leggo dal Corriere, nell'articolo di Giuseppe Guastella, i commissari Ilva sferrano un pesante attacco al gruppo franco-indiano, accusandolo di utilizzare tesi mistificatorie e le consuete logiche di un certo tipo di capitalismo d'assalto, secondo il quale quando tutto va bene è guadagno io, mentre se invece si perde è allora perdiamo insieme, cercando di imporre surrettiziamente una riduzione del personale di 5.000 unità, da 10.700 a 5.700 dipendenti. Questo è la memoria dei commissari depositata nel Tribunale di Milano. Ma vengo allora a Paolo Bricca e Domenico Palmiotti, che trattano lo stesso tema dal Sole 24 Ore. Ex Ilva, sale lo scontro sui 3.000 esuberi. Il governo chiede una garanzia per l'impiego a 6 anni di tutti gli operai in cassa integrazione, nessun accordo con ArcelorMittal. Logica di mercato: il gruppo franco-indiano decide il fermo dell'acciaieria 1, ma riavvia la produzione della lamiera e 300 cassa integrati tornano al lavoro. Nel frattempo Paolo Bricco ci racconta anche in un'analisi del vertice in Federacciai, perché l'acciaio è strategico evidentemente sul futuro di Taranto, ma non solo. Soluzione di sistema con l'industria del nord. E allora noi ovviamente non nascondiamo solitamente la nostra predilezione per le forme di socializzazione, ma qui, dice il manifesto, Mittal vuole socializzare la ristrutturazione, che insomma è una cosa un po' diversa, un concetto un po' diverso. Battaglia legale al Tribunale di Milano, mentre l'accordo tra le parti è lontano. E anche dalla Repubblica abbiamo i commissari Ilva che definiscono Mittal un capitalista d'assalto. Insomma, difficile trovare capitalisti di retroguardia o infanteria, ma comunque questo è il tono che appunto arriva dal processo di Milano. ArcelorMittal ha portato avanti le consuete logiche di un certo tipo di capitalismo d'assalto, secondo le quali se a valle dell'affare concordato si guadagno io, se si perde allora perdiamo insieme, dicono i legali dei commissari dell'ex Ilva. A proposito di grandi gruppi, Repubblica nella stessa pagina economica ci segnala il primo no dell'Unione Europea a questo accordo tra Fincantieri ed STX. Nel documento inviato al gruppo, l'antitrust di Bruxelles parla di rischi per il mercato e anche per i prezzi. L'acquisizione appunto darebbe una posizione dominante al nuovo colosso che unirebbe il primo e il secondo costruttore del continente, quindi davvero un Moloch, un colosso. Abbiamo invece, a proposito di conti, guardiamo un po' quello che succede sul fronte delle pensioni con il manifesto, perché lunedì ci sarà un incontro al Ministero proprio sul tema pensioni, il governo a favore della flessibilità in uscita da 64 anni. E Fornero contro i sindacati sulla pensione a 62, l'ex ministra contro il segretario della CGIL Landini. In realtà, ci ricorda il manifesto, la posizione di CGIL CISL UIL non è cambiata dal 2014, nel senso che la proposta è praticamente rimasta invariata. Ma appunto in vista dell'incontro ci sono questi colpi appunto sulla riforma Fornero che vedono scendere in pista anche l'ex ministro. Allora andiamo un po' di cronaca con Fulvio Buffi dalle cronache del Corriere. Leggo: licenziati gli agenti che suonarono alle nostre trash a Napoli, la vedova del boss e il neomelodico. Lui dice deplorevole che li abbiano licenziati. Ora, io sono garantista evidentemente, ma che dei guardie carcere vadano a suonare al matrimonio della figlia del boss, fossero, anche se fossero astenuti da questa incombenza, per maggiore trasparenza, no? Rispetto nelle carceri, ma siamo in Italia. Allora, sono stati licenziati dalla polizia penitenziaria 5 gli ispettori che facevano parte della banda musicale del corpo e che il 27 marzo scorso suonarono in occasione delle nozze del cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss di Secondigliano Gaetano Marino, ucciso nell'agosto del 2012 mentre era in vacanza con la famiglia a Terracina. I 5 ormai ex ispettori furono ripresi in numerosi video girati in occasione della cerimonia celebrata al Maschio Angioino, che fu preceduta da una sfilata con carrozze e cavalli per le vie di Secondigliano e da un concerto non autorizzato dello stesso Tony Colombo in piazza del Plebiscito, episodio sul quale è in corso una inchiesta di direzione distrettuale antimafia di Napoli. I trombettisti accolsero la sposa all'ingresso del castello e lo accompagnarono con la loro musica anche all'uscita. I video che li traevano fecero il giro della rete e il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, intervenne con un provvedimento di sospensione che ora, quasi 11 mesi di distanza, dopo un approfondimento di indagine interna, si è trasformata in licenziamento. Ma oltre il danno, la beffa, perché leggo dal Fatto Quotidiano lezione di Camorra in TV. Tony e Tina, perché questi si chiamano i due bei sposi, un po' così, un po' carichi nel trucco, ma insomma, se la celebrazione televisiva del matrimonio tra Tina Rispoli e la vedova eccetera eccetera Tony Colombo vi era sembrata agghiacciante, è perché non avevano ancora ascoltato i due neosposi difendersi in TV. In effetti, dopo averli visti domenica sera non è l'arena, mentre convincevano il pubblico di essere due persone per bene, i giocolieri e le carrozze del loro matrimonio sono diventati la parte sobria della vicenda. Qualche frase colta qua e là la troviamo poi all'interno del servizio. Per esempio il neomelodico Tony Colombo: non sa mai se uno è malavitoso, lo sai dopo dai giornali. Questo mondo naviga sott'acqua, non ti fa mai sapere chi comanda. Insomma, lui non spiega che il babbo della sua fidanzata fosse un mafioso. La vedova, il babbo, il marito, la vedova del boss: le ricchezze mie del mio defunto marito Gaetano Marino, io nel 2003 ho fatto una vincita all'otto molto importante e anche documentata. Questo è il Fatto Quotidiano sulla TV trash, e devo dire che non so se fosse opportuno o meno suonare. Certo è che c'è un crimine anche contro la bella musica. Nu poca pazza tale e quale a me, all'improvviso sei arrivato tu, e non ho capito niente più. Tu senza me guardare sai tutte cose, con te non ho mai inventato scuse. Mo tengo a malattia a gelosia, perché si è innamorata mia, non si è mai davvero perdere. Ti amo amore mio, sei tutta vita mia, ti voglio solo a te, tra un milione per me. Non si può mai spiegare, non si può immaginare, che la casa è invietta a me con te vicino. Ti amo amore mio, a Luca mia savi, e non mi importa tutta gente che mi guarda. Se tutte cose gridano, se centomila femmine, se tu hai più belle davano. Ma dentro a casa mia mo ci stai tu, e fatte guerra me vincite tu. Vicino a te non tengo più paura, so pronto si come un creatore. Ed è pure mamma si è innamorata, pure se me la ritta si cagnate. Sono l'uomo più felice e sai perché? Perché mi scelgo insieme a te e non siamo mai da me sapere. Ti amo amore mio, sei tutta vita mia, ti voglio solo a te, tra un milione femmine. Non si può mai spiegare, non si può immaginare, che la casa è invietta a me con te vicino. Ti amo amore, Luca mi è zavio, e non mi importa tutta gente che mi guarda. Se tutte cose gridano, se centomila femmine, se tu hai più belle nomine. Non si può mai spiegare, non si può immaginare, a me con te vicino. Ti amo amore mio, a Luca mi è zavio, e non mi importa tutta gente che mi guarda. Se tutte cose gridano, se centomila femmine, se tu hai più belle nomine. Tony Colombo, ricordo, è un cantante neomelodico siciliano, anche se canta in napoletano. Devo dire che qualche trombettista in questo pezzo magari non avrebbe stonato, adesso senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria, ma chiudiamo le ultime notizie dalla pagina italiana. C'è una sentenza della Corte di Cassazione che il giornale segnala. Figli troppo tempo con i nonni, affido a rischio per i separati. Quindi attenzione, bisogna centellinare l'uso dei nonni. Per i giudici non si può delegare troppo ai parenti la funzione genitoriale, neanche per impegni di lavoro. Andiamo invece a vicende ambientali che poi ritroveremo fra poco. A Venezia una teca di vetro proteggerà San Marco dall'acqua alta, un'opera da 3 milioni e mezzo di euro. Così salveremo la basilica. Lastre robuste e trasparenti saranno inserite lì dove oggi ci sono i parapetti di ferro. È una soluzione ideata dagli uffici tecnici. L'urgenza è dettata dal fatto che non si può aspettare che il MOSE sia completato, in teoria a fine 2021. Sotto, nella stessa pagina, Repubblica invece, ma il Carlino lo fa ancora con maggiore enfasi, segnala i portici, simbolo di Bologna, candidati a diventare patrimonio UNESCO. Restando in strada abbiamo il pasticcio dei monopattini, perché dopo l'equiparazione alle biciclette dei monopattini c'è la marcia indietro dei 5 Stelle, che dicono torniamo alla sperimentazione, e quindi in qualche modo rimettono un po', rimettono in gioco una questione che sembrava avviata in una direzione ben precisa. Con il Manifesto invece andiamo in Lucania, perché oggi c'è una ricognizione tra i bravi braccianti lucani, i dannati delle campagne, la salute impossibile di 2000 morti viventi. Non si tratta di zombie, di serie di zombie, ma si tratta di un rapporto di Medici Senza Frontiere sui lavoratori dei campi, intitolato Vita e Giornata, appunto, che riporta in tutta evidenza vicende, appunto, di sfruttamento esasperato tra caporalato e malattie. Fra l'altro, Medici Senza Frontiere ha offerto cure e orientamento sanitario a 500 persone dopo aver raccolto, appunto, decine di testimonianze. E andiamo a Davos, dove nel mondo dei VIP sono entrati gli intrusi, cioè le persone di questo mondo, in particolare i ragazzi. Tra questi cominciamo da Naomi e la battaglia per le vittime delle armi. Sono la voce delle ragazze afroamericane. La tredicenne ha iniziato la lotta quando era alle elementari, neri donne ancora discriminati. Posso essere cattivi, dice Naomi Watts, dice, inutile cercare di educare gli ignoranti, a proposito di dichiarazioni che fa Donald Trump, si becca degli schiaffoni da questa tredicenne, perché ogni volta che esprime le sue convinzioni non c'è nulla che consenta di fargli cambiare, i sovranisti sono uguali il mondo. Allora Naomi lo ricorda, scusate, e dice la stampa, con articoli di Zatterin, il World Economic Forum l'ha inserita tra i 10 ragazzi che possono cambiare il mondo, giusto a fianco di Greta Thunberg. Cool! Ha pensato lei, inserita agli onori della cronaca per uno sciopero organizzato alla George Mason Elementary School di Alexandria in Virginia, neanche 2 anni fa. Coi compagni aveva deciso di uscire dalla classe per commemorare 17 ragazzi uccisi a fucilate in Florida. Il presidente non voleva, ricorda la ragazza, chiese che tutti portassero l'autorizzazione dei genitori, pensando che non ce l'avremmo fatta, invece sì. E poi l'avvenire, parlando di Davos, dice, due mondi a Davos o a Davos. I due mondi hanno due testimonial. Uno è il mondo ignorante, ecco, di Trump, e l'altro è il mondo che può cambiare e salvarsi, è quello di col voto di Greta Thunberg. Trump a Davos attacca Greta sul clima, ambientalista profeti di sventura. Quindi impariamo che se brucia l'Australia è colpa degli ambientalisti, in particolare di Greta Thunberg. Il presidente dell'America torna a vincere ed esalta la crescita economica, l'attivista svedese, nulla è cambiato rispetto all'ambiente. Questo è il e poi a Davos si parla anche di commercio online, web tax, dietro fronti Macron, Washington ora avverte l'Italia, Parigi rinuncia a tassare i colossi digitali, guarda un po' questo grande centro, quando si muovono le lobby, Roma è spiazzata perché si trova troppo sola, meno qui si sente, e Mnuchin minaccia i dazi, gli USA contestano agli europei di imporre una tariffa sul fatturato a prescindere dagli utili, insomma questo è il nemico degli USA, privilegiate l'Europa, ma noi le chiamo il direttano, l'alleato padrone d'oltreoceano nella NATO, questo è un po' lo scambio ineguale. Comunque il Corriere ama questa simbologia Trump e Greta, quindi diventa quasi una telenovela. Il presidente USA, noi profitti di sventura e alle loro idee di apocalisse, l'attivista svedese, ascoltati i giovani, la scienza, la nostra casa è ancora in fiamme. Questo è mentre Milesi Ferretti del Fondo Monetario Internazionale dà una lezione anche ai nostri governanti, investite nella scuola è la migliore scelta per l'Italia. Non pensate solo ai prossimi anni. Repubblica oggi accosta i giovani, due giovani che sfidano il potere in Italia, non solo, appunto, con due ritratti di Mattia Santori delle Sardine e Greta Thunberg. E poi l'accostamento però più diretto è quello tra Trump e Greta Thunberg, duello a Davos, cattivissimo Trump, lo sbruffone e la bambina, scrive Michele Serra, o anche il gigante e la bambina, si dice all'interno, ricordando la canzone di un giovanissimo Ron, sta di fatto che il manifesto invece, in maniera più tranchant, titola oggi Ecomostro. Questi due universi opposti che si scontrano, da una parte Greta Thunberg con le ONG e dall'altra il mondo degli affari, l'eco negazionista Trump attacca gli ambientalisti definiti profeti di sventure, Trump che lancia anatemi contro chi prospetta l'apocalisse, clima di scontro, appunto, a Davos, mentre per peraltro il manifesto condisce appunto le notizie dal vertice con questo dato dalla Spagna. In Spagna è emergenza ambientale, 100% di energie rinnovabili, stop ai sussidi ai combustibili fossili, in arrivo la legge entro 100 giorni. Il governo Sanchez punta all'azzeramento totale delle emissioni di CO2 entro il 2050, ma questo mentre la tempesta Gloria sta devastando le regioni orientali della Spagna. Ma nel frattempo anche in Italia il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato alla Commissione Europea il testo definitivo del Piano Nazionale per l'Energia e il Clima, che recepisce le novità contenute nel decreto legge sul clima, nonché quello sugli investimenti per il Green New Deal. E ci sono le critiche che arrivano da Greenpeace e WWF. Greenpeace, in una nota: l'Italia non è sulla strada giusta per rispettare gli accordi di Parigi. Il gas, uno dei responsabili della crisi climatica, continua ad essere il padrone indiscusso. E anche il WWF rincara la dose, segnalando appunto che anche l'abbandono del carbone confermato sarebbe subordinato alla realizzazione di una serie di impianti e infrastrutture, come se queste fossero indipendenti dalle regole appunto che ci sono. L'altra notizia, naturalmente, il virus che somiglia alla SARS, di cui però ancora siamo molto poco, che è partita da questa città cinese di Wuhan. Il virus non si ferma. Pechino, puniremo chi nasconde le notizie. Questo è l'aspetto positivo rispetto a cose precedenti. Non cala quella coltre di silenzio che naturalmente favorisce solo la diffusione dell'epidemia. Primo caso negli Stati Uniti d'America. L'uomo rientrava da un viaggio in Cina. Tra l'altro, siccome si sta celebrando il Capodanno cinese, c'è una grande mobilità di, tra virgolette, di esatici, ma non solo in Asia, ma in tutto il mondo, per questa festività. Perciò è un momento di massima delicatezza. Allora se partono subito le contromisure. Maurizio Barbeschi, interpellato come medico specialista dell'emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità da Valentina Arcovio, è studiando le persone colpite che riusciamo a battere le infezioni. Oggi i virus sono aumentati e si diffondono più facilmente per la grande mobilità delle persone, ricorda appunto anche l'infettivologo. E allora tra i passeggeri di Fiumicino volano le vendite di mascherine. Lin Wen, di solito non l'ammetto, ma visto l'aumento dei contagi ho preferito farlo in questa volta. Nello scalo romano attivi gli scanner per il controllo di viaggiatori provenienti dalle zone a rischio. Su questa segretezza, non più segretezza, interviene anche il Fatto Quotidiano sull'allarme. Coronavirus, la Cina riscopre la trasparenza ad orologeria. 6 morti, il primo infetto negli USA. Pechino non nasconde le notizie e stavolta non si parla di repressione. È il paziente di Wuhan che ha infettato 15 medici e infermieri. Sì, Gina, si registrano 6 decessi, racconta Guido Sante Vecchi dal Corriere. Puniremo chi nasconde i dati. Capodanno lunaro, 200 milioni in viaggio, Xi Jinping, cruciali prevenzioni e cruciali i controlli. Ma l'epidemiologo invece, Giovanni Rezza, mette un freno all'allarme, contagio più difficile rispetto all'influenza. Comunque, c'è anche Gianmarco Tremendi, che recupera Margherita De Bacche dal Corriere, racconta la vedova Urbani, l'infettivologo che lanciò l'allarme nel 2006 della SARS. Carlo morì di SARS, rivivo quelle ore. Sì, ovviamente tema appunto che ad esempio Repubblica riprende segnalando il primo caso anche negli Stati Uniti, e mentre a Fiumicino partono i test per la febbre. In Europa il rischio passa da basso a moderato, e poi c'è un dossier sul perché i virus nascano proprio in Cina, in particolare per appunto questo utilizzo di mercati tradizionali con cibo, animali che appunto freschi. E per quanto riguarda il resto delle pagine internazionali, si torna ancora sulla vicenda libica. Da un lato il manifesto ci segnala che i deboli risultati della conferenza di Berlino sono già diventati carta straccia. Tra Tripoli e Bengasi impazza la partita del petrolio. Fallito il cessate il fuoco, dice appunto Repubblica oggi, riprendendo poi nelle pagine interne il barometro della situazione di male in greggio tra Erdogan, che reclama il gas e affonda l'Europa come coordinatrice di pace, mentre Abbiamo al-Sarraj che ieri ha accusato Haftar di non essere un partner affidabile. Venerdì a Bruxelles, prima riunione della missione Sophia per ridefinire i compiti dell'operazione. Per un intervento a terra oltre a un mandato ONU servirebbe una richiesta proprio da parte delle due parti che si contrappongono. Anche dalla Repubblica leggiamo i cadetti di Libia bombardati da Haftar, quelli che il 4 gennaio furono colpiti da un missile. L'inviato a Tripoli ha intervistato alcuni dei parenti, dei genitori appunto delle vittime di questa strage, con Mattarella che ieri è intervenuto ribadendo la legittimità italiana ad al-Sarraj ma la necessità di dialogare con tutti. Tregua in Libia sempre più fragile, blocco dei pozzi e accuse infondate, porti chiusi, che quando sono il petrolio si scandalizzano tutti, se invece sulle persone molti sono d'accordo. Comunque, Haftar denuncia, Erdogan infiltra terroristi, missile di Tripoli contro le truppe del generale. A proposito di Erdogan, armi Turchia. Nonostante le promesse del governo in occasione dell'invasione del Rojava, l'Italia ha continuato a esportare armi alla Turchia di Erdogan e a ottobre ha scorso raggiunto il record di esportazioni. E sì, che dobbiamo impedire paesi coinvolti nelle guerre. La Turchia adesso è coinvolta ufficialmente in Libia e noi continuiamo a vendere armi. Comunque la denuncia arriva dalla rete italiana Disarmo ed Altra Economia, che si sono basate su dati dell'Istat. Noi abbiamo raggiunto Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, sentiamo la sua testimonianza. La scelta è giustificata dal fatto, diciamo, dal fronte governativo, utilizzando la giustificazione che la Turchia è un paese membro della NATO e a detta della unità che presso la Farnesina si occupa dell'autorizzazione all'esportazione di materiali d'armamento, che la Turchia rappresenterebbe un alleato strategico nella lotta al sedicente Stato Islamico. In forza di queste giustificazioni, peraltro talune anche piuttosto problematiche, vedasi il ruolo della Turchia di alleato in realtà sul terreno dei miliziani dello Stato Islamico, in forza di queste giustificazioni o di pretesti, l'Italia esporta una quantità ingente e autorizza l'esportazione di una quantità ingente di materiali d'armamento, tanto che il 2019, per quanto ci risulta dati Istat alla mano, rappresenta l'anno record senza pari nella storia delle relazioni armate, diciamo così, tra Italia e Turchia. Nei primi 10 mesi dell'anno appena trascorso, i dati si fermano a ottobre per ovvi motivi di elaborazione, l'Italia ha esportato, quindi non ha autorizzato l'esportazione, ma ha esportato materialmente armi e munizioni per 102 milioni di euro. E questo appunto è il paese che tradisce la sua Costituzione, che naturalmente aborre la guerra come risoluzione delle questioni internazionali. Noi vendiamo le armi. E allora ci riporta dunque a Guantanamo, vanno a processo ma da testimoni gli psicologi USA che inventarono il waterboarding, quella tortura con l'acqua. E sapete quanto hanno preso per questo crimine? Hanno ricevuto dalla CIA 81 milioni per la bella pensata. Questo è il delitto e castigo, questo è quanto. Ma prima di andare verso la conclusione, un saluto a un grande pensatore italiano, 93 anni, ma ci lascia comunque un vuoto importante. Parliamo di Severino, filosofo. Addio Severino, il filosofo che impressionò Heidegger. Il professore si è spento a 90 anni in giugno a Brescia, vi convegno sulle note che il pensatore tedesco gli aveva dedicato. Una lunga carriera, questo sostenitore dell'ateismo profondo e ricco di umanesimo, allievo di Gustavo Contadini, ottenne la libera docenza a 22 anni. Lo ricorda Gianni Vattimo, è stato una pietra d'inciampo per il pensiero, ricorda quindi l'amico e l'avversario, l'intellettuale scomodo che ancora ci turba. Sì, un gigante del pensiero italiano, tant'è che oggi i giornali appunto dedicano pagine e pagine alla sua figura. Morto a quasi 91 anni, dice il giornale, il filosofo, una vita da filosofo in nome dell'essere, per le sue idee fu cacciato dall'Università Cattolica di Milano, approdando poi a Ca' Foscari, dove è rimasto fino alla fine, e anche così come al San Raffaele di Milano. L'ordine dell'essere, l'incerto destino, dice la pagina del Manifesto, che parla della sua rivoluzionaria concezione dell'ontologia, delle gerarchie del potere, anche le sue critiche al capitalismo e al comunismo. Con la Repubblica, Severino, il maestro e l'essere, con un articolo di Massimo Cacciari, era affamato disperatamente di verità.